24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, bentrovati a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In primo piano lo sventato attentato al premier finlandese, la reazione della Spagna dopo il voto in Galizia e il confronto degli stipendi dei professori italiani con quelli europei. In apertura dunque andiamo in Finlandia, dove un uomo ieri ha tentato di colpire il premier durante un comizio. Jyrki Katainen stava parlando alla gente nella città di Turku, impegnata domenica con le elezioni, quando un uomo ha cercato di accoltellarlo. Il politico è rimasto illeso e l'attentatore è stato arrestato prima che riuscisse ad avvicinarsi al premier. Il capo del governo spagnolo, Mariano Rajoy, ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo il voto di domenica in Galizia, dove il Partito Popolare ha conservato la maggioranza assoluta. Ma nei Paesi Baschi gli indipendentisti sono diventati la seconda forza regionale. Una buona e una cattiva notizia per il premier spagnolo Mariano Rajoy, che supera senza grosse difficoltà il doppio appuntamento con le elezioni regionali in Galizia e nei Paesi Baschi in uno dei momenti più critici del suo primo anno di governo. Rajoy non crolla nella sua Galizia, anzi il suo Partito Popolare amplia i propri seggi nel Parlamento regionale superando di 3 unità la maggioranza assoluta. Crollano al 20% i socialisti, perdendo un terzo del proprio elettorato. Fin qui la boccata d'ossigeno al claudicante governo del PP, che potrebbe infondere coraggio allo stesso Rajoy affinché prenda decisioni difficili, quali la richiesta di aiuto all'Europa, attesa ormai da settimane. Le cattive notizie arrivano dai Paesi Baschi, dove soffia forte il vento indipendentista, rinfocolato dai desideri secessionisti che dilagano in Catalunya. Il PNV, partito nazionalista basco, resta con lievi perdite il primo partito regionale, ma è la sorprendente avanzata della formazione di sinistra Bildu, con un risultato record al 25% che spaventa la capitale. Bildu è la formazione politica che ha raccolto l'eredità di Batasuna e più indirettamente dell'ETA. A questo punto Bildu potrebbe divenire l'ago della bilancia nella formazione del prossimo governo basco, esecutivo che, comunque vadano le cose, avrà un forte sapore nazionalista. Per Madrid si preannunciano nuove tensioni nel nord del paese. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora in Grecia il nuovo pacchetto di misure di austerità che il governo si prepara a presentare in Parlamento fa già una vittima. Il premier e leader di Nea Dimokrazia, Antonis Samaras, ha radiato infatti dal partito il parlamentare Nikos Stavroianis perché aveva preannunciato che non avrebbe votato le misure definite ingiuste ed inefficaci. La decisione del premier viene considerata un monito verso gli altri parlamentari, ma anche un messaggio ai creditori internazionali sulla ferma decisione del governo di far approvare le misure per ottenere al più presto la tranche da 31,5 miliardi di euro. Niente più vendite allo scoperto nude e obbligo di comunicare le posizioni oltre certe soglie. Entra in vigore dal 1 novembre il regolamento dell'Unione Europea. Per l'Italia le novità riguardano solo i titoli di Stato, perché sul mercato azionario le regole europee sono state anticipate di circa un anno dalla Consob. Ora in Russia sono state inviate in colonie penali le due Pussy Riot, condannate al carcere per aver cantato una dissacrante preghiera anti-Putin in una cattedrale ortodossa. Le due Pussy Riot rimaste in carcere sono state destinate a colonie penali giudicate dai sostenitori tra le più dure nel sistema carcerario femminile russo. Maria Liokhina nella regione di Perm, Nadia Talakonnikova in Mordovia, descritta dal marito come l'inferno delle prigioni. Non in Siberia dunque, ma nella Russia europea. Destinazioni finali devono ancora essere confermate, ma Masha e Nadia hanno lasciato Mosca nell'ultimo atto che sembra confermare la volontà delle autorità russe di mostrarsi inflessibile nella repressione del dissenso. Una svolta confermata dall'ondata di procedimenti penali aperti nei confronti dei leader delle proteste dei mesi scorsi, l'ultimo Sergei Udaltsov, accusato di complottare disordini di massa. Secondo Dmitry Gudkov, deputato dell'opposizione, il Cremlino sta tastando il polso dell'opinione pubblica per capire fino a che punto può spingere il giro di vite, allontanandosi sempre più dall'Europa, né una misura al fatto che il Parlamento europeo abbia incluso le Pussy Riot tra i candidati al premio Sakharov per i diritti umani, assegnato in dicembre. Gli altri finalisti vengono dalla Bielorussia e dall'Iran. Ma anche in Russia, mentre le ragazze raggiungono le loro colonie penali, l'opposizione che chiede democrazia sta tornando sempre di più ai margini. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. agli ultimi posti in Europa e con un trend in peggioramento, al 69esimo posto nel mondo. Per corruzione percepita l'Italia si colloca dunque al pari di Ghana e Macedonia. La classifica è stilata da Transparency International. È uno dei dati contenuti nel rapporto sulla corruzione realizzato dalla Commissione sulla prevenzione del fenomeno. E dopo l'approvazione alla Camera del DDL anticorruzione, il guardasigilli Paola Severino rilancia anche la riforma della prescrizione, più volte sollecitata pure dall'Unione Europea. Poiché il tema della prescrizione è un tema le cui cause e le cui possibili soluzioni si riferiscono a categorie di soggetti, avvocati, magistrati, queste categorie devono comunque essere sentite nella predisposizione di qualunque provvedimento che riguardi la prescrizione. Occhi puntati di Bruxelles sullo sciopero della fame di un gruppo di ex detenuti politici che chiedono un risarcimento per gli anni trascorsi nelle carceri della dittatura comunista in Albania. Vertice mondiale sull'Antartide, 32 paesi riuniti ad Hobart per la flora e la fauna. 7 aree di riserva marina, un corridoio protetto di 2,5 chilometri lungo le coste, la salvaguardia del krill antartico. Questi i temi di cui da oggi e per un mese discuteranno i rappresentanti di 32 paesi riuniti a Hobart in Australia nell'ambito della Convenzione sulla conservazione della fauna e della flora marina dell'Antartide. 13 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio, sempre sotto la precaria condizione di zona franca. Questo, in fondo, è l'Antartide. Condizione che più volte scricchiolò. Nel 59 il Trattato di Washington pose fine alle rivendicazioni di Gran Bretagna, Francia, Nuova Zelanda, Argentina, Norvegia, Cile e Australia. Negli anni della Guerra Fredda la contesa fu tra Russia e Stati Uniti. Ma perché? Che cosa ci si aspetta da queste coste? Gas, petrolio, zinco, carbone e diamanti. Ciò che oggi interessa di più però è l'acqua. La calotta antartica possiede il 50% dell'acqua dolce a disposizione del pianeta. Per ora di tutto questo non si parla e ogni nazione manda avanti i ricercatori e ambientalisti e ci lascia sognare e sperare in un mondo dove il rispetto della natura prevalga su un cinico tornaconto economico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia, blocchi delle ore di straordinario, flash mob e mercoledì lo sciopero della scuola. Protestano gli insegnanti per la proposta prevista nella legge di stabilità di innalzare le ore di lavoro per i docenti della secondaria di primo e secondo grado a parità di stipendio. Ma quanto guadagnano e quanto lavorano i nostri prof rispetto ai colleghi degli altri paesi europei? Ce lo spiega Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L, al microfono di Maria Piera Ceci. È vero che gli insegnanti italiani hanno uno stipendio più basso della media europea, però lavorano meno della media europea. Se si controllano le ore contrattuali, però la differenza dello stipendio, che apparentemente è 15-20%, si riduce al 5-10%, perché lavorano appunto delle ore in meno. Ma al di là di questo, quel che conta poi è come si arriva a far l'insegnante. In Germania, dove si guadagna molto più che in Italia, gli insegnanti tedeschi sono i più pagati d'Europa. Detto per inciso, gli insegnanti francesi guadagnano meno dei nostri, quindi voglio dire c'è una situazione variegata in tutta Europa. Ma insomma, dicevo, gli insegnanti tedeschi per diventare insegnanti studiano e devono passare e fare una formazione per entrare e diventare insegnanti di 5 o 6 anni con valutazioni molto serie, per cui quando uno diventa insegnante ha fatto un investimento importante ed è stato valutato per entrare a fare l'insegnante. Da noi invece non è così, come lei sa ci sono un sacco di insegnanti per le scuole elementari peraltro che non sono nemmeno laureati. E parliamo ora di sport, una rete internazionale di istituzioni e operatori in continuo dialogo contro le scommesse illecite. Si leva questa proposta dal workshop promosso dalla Gazzetta dello Sport a Milano e un ruolo fondamentale lo sta svolgendo anche la Commissione Europea, come spiega Giovanni Maggi, rappresentante italiano nella European Lottery Association, intervistato da Dario Ricci. Naturalmente sì, attraverso le nostre rappresentanze di European Lottery siamo costantemente in contatto con la Commissione Europea e con le federazioni europee, con UEFA, FIFA, CIO, perché è attraverso il colloquio, il dialogo con tutte queste organizzazioni che hanno il polso di tutti gli sport, perché non possiamo parlare, non possiamo e non dobbiamo parlare solo di calcio. Quindi è un fenomeno quello del match fixing e delle scommesse a rischio che riguarda tutto il mondo, non solo l'Italia, non solo l'Europa, ma tutto il mondo. Quindi è chiaro che il rapporto con la Commissione europea è uno snodo fondamentale per poi poter parlare anche con istituzioni di altri continenti in modo tale da poter muovere le leve del controllo a livello planetario e non solamente comunitario. 24 ore in Europa termina qui. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.